con Alessandra Speciale per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2021 e anche fare un po' un bilancio personale dell'annata cinematografica. Ciao, ben trovata e auguri. Grazie, ciao a tutti. Come sempre è un compito difficile quello di riassumere, poi 5, neanche 10, sei cattivissima. 5 è proprio dura. E tra l'altro anche trovare film che siano usciti, perché come sai un po' per il mio lavoro poi alla fine mescolo un po' nella mia mente tutto quello che vedo e non sempre tutto esce in sala, quindi cominciamo già a fare un po' un bilancio. Devo dire che però anche tra i film usciti in sala quest'anno tante belle cose, quindi cercando di riassumere il più possibile, sono resa conto che avevo nella mia shortlist una marea di film italiani e questo già anticipo un po' il bilancio dell'anno, che posso dire che dal mio punto di vista ci sono stati tanti film italiani molto belli quest'anno e in effetti alcuni di questi poi rientrano nei miei 5 top. E partirei con Mars può aspettare di Bellocchio, quindi parto con un maestro, con un grande, però con un film coraggioso, innanzitutto la scelta del documentario, quindi del reale, film di grande coraggio, anche per la lucidità di fare un'indagine profonda nel suo passato familiare, i suoi traumi, per me un film magnifico. Poi proseguirei con un altro italiano, padre iracheno e madre italiana. Partiamo da un maestro, qui invece arriviamo a un giovane, non dico esordiente perché sul terzo lungo ma è poco conosciuto, Haider Rashid, con il film Europa, che è stato al Knesende Realizzateur a Cannes e poi insomma sta vincendo premi un po' in tutto il mondo. Un film che tratta un tema molto urgente, l'ostilità di alcuni paesi dell'est Europa nei confronti dei rifugiati. Mi ha colpito perché riesce a evitare tutta la retorica dei film ormai attesi sul discorso di immigrazione, adottando invece un linguaggio molto contemporaneo, anche ispirato al thriller, quindi al film di genere, un film immersivo con una camera mobilissima che mi ha veramente trascinato emotivamente e visivamente. Poi beh, tu sai che appunto nella mia cinquina ovviamente passo da maestri a esordienti e vado anche un po' più sui miei paesi cari, quindi assolutamente ci metto una donna e assolutamente una donna che viene da un paese arabo, la Tunisia, l'uomo che ha venduto la sua pelle, The Man Who Sold His Skin, che è uscito brevemente, ma forse uno dei pochi film arabi usciti quest'anno, la regista è Kauter Benania, il film è stato candidato nella cinquina degli Oscar come miglior film straniero nel 2021, quindi so che è un film che viene dalla Tunisia, è passato a Orizzonte, a Venezia, poi ha fatto insomma la sua bella carriera, in sala purtroppo poco in Italia, qui con un linguaggio più classico rispetto a Europa di Haider Rashid, però affrontiamo ancora il tema scottante dell'immigrazione in un modo inedito, facendo un racconto parodistico sul mondo dell'arte contemporanea, immaginando un siriano che per fuggire dal suo paese in guerra ed entrare in Europa si fa stampare un visto Schengen sulla schiena, quindi uno sguardo piuttosto acuto e ironico sulle stravaganze, se vogliamo, di un certo mercato dell'arte e al tempo stesso un'impressione profonda anche sul concetto di libertà. Poi passerei a un altro grande, qui siamo negli Stati Uniti, per me è un film che mi ha folgorata, The Card Counter di Shudder, tradotto in italiano con Il collezionista di carte, non si sa come e perché questa traduzione, e qui ancora un anti-eroe alla Shudder, ex veterano finito in carcere per le torture dei prigionieri di Abu Ghraib, che diventa un giocatore di poker e quindi insomma la sua vita monotona, soffocata dal senso di colpa, insomma regia meravigliosa, elegante, personaggi fantastici, un film che mi ha pregata. E come avevo anticipato, tanta Italia, qui un altro italiano come Haider Rashid, molto cosmopolita con origini miste, Giovanna Scarpignano, A Chiara. Ecco, altro film che mi ha conquistata, e amo molto Carpignano, ma qui per me raggiunge la sua summa con un racconto di mafia inedito per naturalezza, veridicità, un racconto anche di formazione, una narrazione avvincente, anche qui molto immersiva, in questa quotidianità apparentemente normale di una famiglia mafiosa calabrese, quindi anche un tema inedito, anche qui i provvedimenti di potestà che hanno preso l'Italia per allontanare i figli dalla grande, ma soprattutto più che sulla mafia, un vero racconto familiare. quindi altra bellissima prova di Carpignano. Questi sono i miei cinque, Federico. Ok, e poi si ragionava anche con gli altri e le altre su quest'annata cinematografica, tra intasamento delle uscite, tra uscite lampo, sale semideserte, piattaforme, come la vedi tu? È difficile in questo momento avere un orizzonte nitido e chiaro. Vedo che si sta resistendo, che comunque per quel che riguarda la produzione, almeno dal mio punto di vista di chi seleziona, non ho visto per ora una discesa in termini numerici di film prodotti. Quest'anno ne sono arrivati comunque tantissimi, sia per il mio lavoro che faccio per il Festival Cinematografico d'Asia America Latina di Milano, ma anche per il mio lavoro di selezione per Venezia. Quindi ancora non si sente un calo della produzione, però il discorso della distribuzione sta diventando così difficile, soprattutto quella in sala, che probabilmente gli effetti di quello che sta succedendo si vedranno tra uno o due anni, forse anche tre anni, perché non credo che in questo momento la distribuzione possa assorbire tutta la produzione che c'era fino a un po' di anni fa. Anche se le piattaforme comunque contribuiscono a dare delle opportunità, ma sicuramente non sono sufficienti per ammortizzare poi tutto il numero di film che escono. Che chiaramente anche prima c'era una quantità enorme di film, purtroppo, che facevano una vita festivaliera e non raggiungevano mai le sale. Però la mia sensazione è che siano sempre di più, se la situazione distributiva continua a procedere così a singhiozzo per le continue chiusure, poi sicuramente per il calo di pubblico dovuto alla pandemia. Alessandra, è sempre un piacere, ci sentiremo nel corso dell'anno, un abbraccio e ancora auguri. Grazie, un abbraccio a te e un saluto a tutti. A presto. A presto.